mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Cosa? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma siete che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Oh, porco, maiale. Tu sei il re della radio. Se tu fai vedere questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito? Vabbè, mi passa un poco Castratello, però. Chi? Chi? Il Castratello, quello là che dice che è Castratello. Ah, il Castratello, chi? David. Ecco, sarebbe chi su Caffiano a te, un ricucciolo, no, questo qua. Parla un po' con me, c'è sta storia il fascismo, tu ti devi lavare la bocca con la candeggina quando parli del fascismo, perché quell'uomo lì ha reso uomini agli italiani, e solo le persone come te non andavano bene in quell'epoca. Ma poi una cosa, tutta sta simpatia con questi marrucchini che tiene, con questi negri, ma perché non te ne vai in Africa a vivere e non ci sta il tuo cazzo? Cosa, Sinaloto? Alle 16, già 10.000 napoletani dentro al San Paolo. Non lavora nessuno. Beh, giusto per dare un tocco, Parenzo, sì. Come dire, di amore, giusto per, no, per comunicare il nostro amore per Napoli, no? Città che tu ami profondamente. No, a me Napoli piace molto. Scusa, la voce è un po' giù oggi, sono stanco. Ma non è vero che sei stanco. Avevi la voce fino a pochi minuti fa. No, squillante. Ma che dici sei stanco? Ma perché dici sei stanco? No, voglio andare ritirarmi per un po', vorrei ma ritirarmi. Ritirarti dove? Ritirarmi, leggere dei libri, ritirarmi, avere il tempo per vabbè, comunque dai, andiamo avanti. Napoli è bellissima città, mi pare, no? Sì, ma che cazzo vuol dire? niente. Ragazzi, a me fa incazzare una sola cosa, sì, dei politici, quando buonasera, che sì, cosa? Quando utilizzano i soldi nostri, sì, per distribuirli ai parenti. Beh, cioè a me fa incazzare il nepotismo. Bravo, nelle cose private, cioè io credo di non avere mai aiutato nessun componente della mia famiglia a ottenere un lavoro. Beh, dipende cosa vuol dire aiutato. Nel pubblico, ma in generale, sarebbe molto grave. Ma nel privato, mi dà un fastidio. Quando non hai mai segnalato uno bravo che dice guarda, questo qui è bravo, sì, prendilo. Ma non ho mai, mi sentirei a disagio se si trattasse di mia sorella o di mio fratello. Mi sentirei veramente a disagio. Sì, vabbè, cioè, ma te lo dico sinceramente. Anche se dovessi, come dire, consigliare mio fratello o mia sorella nelle cose peraltro private. Tuo fratello è un bravissimo attore, strano. No, veramente fa il regista, comunque. Insomma, scusami. Bravissimo e rinomato regista, quindi. No, rinomato no, bravissimo. Sì, non lo so. Assolutamente rinomato. Ma quindi non è vero. Ma dovremmo, non è vero. Comunque, ragazzi, allora la cosa è questa: perché vi parlo di questa roba qua? Sì. Perché c'è una parlamentare europea che si chiama Lara Comi di Forza Italia, che ha la seconda legislatura al Parlamento europeo, sì, che ha confessato, ha alzato le mani così, confesso, e deve restituire a rate, con lo stipendio che viene praticamente pignorato, utilizziamo questa espressione, con 126.000 euro. Perché deve restituire 126.000 euro al Parlamento europeo? Perché per una serie di anni, ha nominato la madre. la madre come assistente parlamentare, amico mio, la madre. Lo so. Madre. Ma non è l'unica, perché c'è la tua amica, la signora Le Pen, amica tua e del signor Salvini, che deve restituire. Io non ho mai conosciuto tre, vita mia. Sì, voi di sovranitato da quella roba. Ma io non sono assolutamente di sovranità. Voi sei quella impazzito, roba sei. Contro l'euro, ma assolutamente. Questa canea. Bene, tutti questi. Farage deve restituire, Farage, quello dell'UKIP, allora, quello che sì, vabbè, ha capitaletto deve... alla Brexit, €1.000.000 deve restituire. Dai, restituissero un i soldi. Milione di euro. Restituissero i soldi la subito. Signora Le Pen. Oltre 300.000. Oltre 340.000 euro. Ma andiamo perché sulle ha assunto cose la bodyguard. Andiamo sulle cose italiane, perché la cosa clamorosa. Il è, bodyguard. La cosa clamorosa è che la signora Comi deve restituire 126.000 euro perché per un periodo ha preso la madre come assistente. Ora, amica mia, incredibile. Ma come cazzo hai fatto? Ma perché? Ma che bisogno avevi di prendere tua madre? Ma certo. Tua madre al Parlamento Europeo. Già una è arrivata al Parlamento Europeo. Va bene, se è stata eletta, eletta i voti, con le preferenze. Ma prendi tua madre come assistente perché dici che uno si deve fidare delle... Ma che vuol dire? Ma poi dice che è colpa del commercialista. Colpa del commercialista. Amica mia, l'hai scelta tu tua madre, mica il commercialista. Che doveva fare il commercialista? Andare a vedere nei regolamenti del Parlamento Europeo se si poteva fare o no? Il commercialista? Il commercialista? Il commercialista? Devo capire. Quando sono entrata al Parlamento Europeo nel 2009 il regolamento stava cambiando perché precedentemente si potevano assumere parenti e familiari. Io onestamente come persona mia massima di fiducia è mia mamma e mio papà, quindi il commercialista mi disse che questo si poteva fare per un periodo transitorio di un anno. Ragazzi, non diciamo cazzate. Ma dai, io posso su. Mettere come persona massima di fiducia quella zona la mia tata, ad esempio. Ma sì, come posso mettere? Sì, come si parla, assumiamola. Sì, com'è? Sì, no, ma anche il portiere, il portiere di casa tua puoi fare non quello c'è che vuoi. Portiere a casa mia. Ragazzi, la cosa assurda è che poi dà la colpa al commercialista. Dai, su, cioè, ma di che stiamo parlando? Dai, ma cioè, se tira sta roba, non ti viene la depressione? Anche te oggi sono veramente depresso. No, ma perché la depressione? Mi sono fidata, però. Lei ha chiesto l'aspettativa dal suo lavoro. Beh, ci mancava pure che tu la pagavi con i soldi nostri e lei lavorava pure, tua madre, dai, su. Mi sono fidata, ho assunto mia mamma. Nel 2016 mi hanno detto che questo era un errore e quindi sto pagando il doppio di quello che mia mamma ha recepito come suo stipendio per aver lavorato. E vorrei ricordare che per far questo ha chiesto un anno di aspettativa non retribuita dal suo lavoro. Mamma mia, l'inizio di dalla vostra parte di ieri, Parenzo. Questo, senti, questo mi fa molto senti ridere. Come inizia il signor Belpietro. Mi ridà buon umore. Senti. Sì. Buonasera, avete visto il nostro titolo, danno le case di Roma ma non le danno ai terremotati, perché questo è ciò che sta accadendo. Danno le case ai rom e non ai terremotati. Ma vorremmo capire perché gli immigrati tutti stuprano. Ma come gli immigrati tutti stuprano? Il titolo della trasmissione. Perché gli immigrati stuprano? Ma che domanda è, amico mio? Ma ti pare? Senti rom, gli italiani ogni giorno ammazzano le donne mentre gli zingari questo non lo fanno. Ma chi ha detto signori rom? Ma cosa dite? Senti, ma i rom lo dicono. Noi rom siamo un danno per voi, ma... Avete mai preso in considerazione che italiani ogni giorno ammazzano donne, mogli, figli e zingari? Questo non l'hanno mai fatto. Ma Pietro, ma dobbiamo questo, sentire queste stiamo robe dicendo qua. La verità, aci, aci. Sì, però bisogna dire che mi i rom pare sono... di aver riconosciuto la voce della signora Santanchè. Sì, esatto, sì. Immancabile in quegli appuntamenti. Belpietro, intervieni! Che interviene? No, ma il bello è che questi rom, hai ragione tu, alla fine dicono delle cose pazzesche. Sono onesti in questo. Se tu italiani ogni giorno... Che stai una puttanata, dillo italiane pure te. Italiani ogni giorno a Roma... No, ma non mi dirai che è vero, che anche secondo te gli zingari non ammazzano le mogli? Secondo non te? No, è meno diffuso lì, molto no, meno diffuso. Ma sciocca no, la zanzara! Parenzo, no. Oggi... i rom ammazzano le ma donne no, meno degli italiani. No, lì hanno grande rispetto delle donne, questo sicuramente. Sicuramente. Hai mai visto un caso di una donna... hanno grande rispetto per le donne? donne, gli zingari. Beh, mi pare di certo sì. Le mandano a fare le mosche, non c'è dubbio. Sì, ah. Mi pare di sì, più degli italiani sicuramente, ma no, non credo che sia ragazzi, questo. Questo non si può sentire. Cioè, questo non si no, può. Noi certo che roba, pa mangiare roba o Rolex, no, orologio. Dai, Davide, entra nel case, ma non ruba, non rispetta donna, donna no, dai, semaforo. No, ma non puoi dire carità. Ma non puoi dire una cosa del genere. Guarda che hai mai sentito di un caso di un capo rom che ha picchiato la moglie? Ma non dico che lo vanno a denunciare le signore rom. Oggettivamente ma non... le signore rom non lo vanno a... hanno altri problemi. Sicuramente i rom hanno altri problemi. Parenzo, due punti. Le rom, sì. I rom rispettano le donne. Perché ho già visto il titolo di Libero sulla mia apparizione. Una roba incredibile. Un giornale molto... è un giornale divertente quello lì alla fine, no? Noi non uccidiamo i bambini. Senti quest'altro. Ho già che visto Libero Quotidiano come mi ha trattato. Dopo un cazzo, dopo. Noi zingari che siamo qua in Italia, noi siamo qua in Italia da parecchi anni, non ha mai ammazzato nessuno nei bambini, ma voi nelle siete donne, nomadi, nella loro famiglia girare, per motivi di loro. Siete nomadi. Noi non uccidiamo i bambini. Dai, David, sei riuscito a dire che rispettano le donne più di noi, più degli italiani. Probabilmente sì, non risultano casi di quel tipo, insomma, di non che risultano cosa? Casi di donne malmenate di violenze sulle ma donne dai. Nei campi. No. Risultano altri problemi, sicuramente, no? Ma non quello. Poi, se vogliamo dargli anche quella colpa. C'è anche la nostra amica Sabaeta collegata, la nostra amica Sabaeta. La Sabaeta, quella che deve andare a fare le pulizie a casa di Roberto, del direttore napoletano. Sì, però dice che nel pozzo del campo ci sono 500 topi. Sabaeta. La signora Sabaeta. Ottima, signora Sabaeta. E la verità che noi siamo qui a Campo Castelromano, viviamo in una condizione troppo pericolosa che in un pozzo vengano a lavorare, hanno trovato dentro nel pozzo 500 topi dentro nel pozzo e noi ci laviamo con questa acqua. Noi ci laviamo con questa acqua. Povera Sabaeta, mi pare una denuncia da ascoltare però quella della signora Sabaeta. Posso dire che a me degli zingari e dei rom che hanno 500 topi dentro il pozzo del, ma del poveri, campo di poi dice che sono sporchi. Posso dire sommessamente, senza essere accusato di razzismo, ma... se ci sono 500 topi dentro il pozzo del campo di Castelromano che paghiamo noi, che paghiamo appunto, noi, deve essere tenuto e che bene. Dovrebbe essere smantellato, non me ne frega. Questo nulla. D'accordo, ma non può, la gente posso non può vivere che coi non topi, me ne frega però. Nulla. È colpa delle mafie romane che hanno sovvenzionato il campo vero, e che hanno vissuto dietro quel campo prendendo soldi nostri e probabilmente non facendo nulla per quel Bravo. Campo ma intascandosi i soldi. Quindi vedi che quei ma politici sono stati più ladri dei rom? Quei politici lì, quelli che hanno costruito questi campi i senza politici fare sono adeguati. Più ladri dei rom? Vabbè sì, ma in termini alcuni, numerici, che vuol dire? Mafia capitale, hai mai sentito parlare di mafia capitale? Tu Fermo, hai sì, mai non, sentito? Non farti sentire da Ferrari e da Sgarbi che dicono che non esiste mafia capitale, aspetta. Quando sento il traffico divento pazzo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. La maggioranza che fa rumore è con Donato. Vota Donato, vota Donato, vota Donato, vota Donato, vota Donato. Italiani! Madonna mi romana, la crucia, quando sento la zanzara la sera, madonna mi, è un orgasmo mica. Allora, a molte persone ha fatto incazzare, caro Parenzo, questa frase di Sgarbi di ieri. Lo Sgarbone ha detto che i 9.000 euro, oltre 9.000 euro di vitalizio che prende, sono una cosa sacrosanta, cioè dice me li merito tutti, oltre 9.000 euro di vitalizio che lui nemmeno vede perché vanno ai figli. 9.000 euro di vitalizio, il professore Sgarbi, una vecchia questione, lui ogni volta si incazza dicendo io non c'entro niente, sono norme che non ho approvato io, non li vedo nemmeno perché vanno tutti ai figli, uno può dire sti cazzi naturalmente perché chi se ne frega, comunque 9.000 euro e dice meglio i miei sono meritati. Poi i vitalizi ormai sono diventati, lo diceva Vabbè, tu prendi 9.000, non è che prendi poco. Sono ben felice, me li merito anche. Vai, i miei figli, sono felice che vada lì. Meglio un vitalizio che pagare un grillino. Io non lo fare, i parlamentari gratis, siccome non valgono nulla, meglio il vitalizio a uno che ha un minimo di capacità dimostrate per quello che ha fatto. Cioè, dunque, meglio vitalizio a te, però meglio no, vitalizio a te. Loro. E poi la grande rivelazione. Sono normodotato. Che vuol dire normodotato secondo te? Vuol dire che è nella norma. Che è nella norma, no? Che nella norma, cioè, non si capisce bene. Che non, ha, nella che norma. Non ha nulla, che è nelle dimensioni considerate normali. Nella norma non si capisce qual è la norma, però. Beh, basta questo. Non si è capita la norma. Qualsiasi sessuologo che ti dice. Tu qual dici è la... 12, 13, 14. La norma, io non entro mai, come sai, nello specifico. Lo so, di questi temi. Lo so che non vuoi entrare. No, ma era semplicemente una spiegazione della parola normodotato, capito? Sì, ma vuol dire che è nella norma, cioè. Ci sono degli standard, di cosiddetti peni standard, sì, che sono la dimensione quella. Sì, ma comune. Che vuol dire normodotato? Non vuol dire normodotato, sarà 13, la 14. La maniacale attenzione a questi dettagli è encomiabile. Sono normodotato. Sei normodotato, ecco, questa è l'unica parte di me che è normale. L'unica ecco, parte questo di me è interessante, normale, vedi, è normodotato. Però devo dire che sono anche normoconsumato, nel senso che è stato molto usato. Nasci con la Nerchier. Quello sempre, caro Semproni, sempre. Commentino. Sempre. Semproni. Professor Semproni, Semproni. Sì. Paolo da Cosenza, vai Paolo, vai. Vai, pronto, vai dritto. Buonasera. Dimmi mi Paolo. Senti? Sì, ti sento, come no? E io ti dico una cosa, Cruciani. Dimmi. Bell'accento cosentino. Questo no, accento pizzitano, anche se vivo nella città più bella del mondo. Sì. Sì. Senta un attimo, ti volevo dire una cosa. Se campava quella buon'anima di Basaglia, sì, a te ti dava una laurea in psichiatria honorin causa. Ma a perché? Honorin, però parlare. Sì, honoris causa, cioè honorim, no, esatto, laurea ad honorem, cioè. Allora. Tu fai parlare a Federico, fai parlare a me. Però a proposito di Napoli, e dopo ti prendo un altro discorso. No, ma scusami, a Napoli volevo scusami, dire. Paolo, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Cosa vuoi parlare, caro Paolo da Cosenza? No. Ti volevo dire una cosa. Dimmi. Ti volevo parlare per quel signore Federico. Sì, chi cazzo è Federico? Chi è? Quelli noleggio con conducente che va a zoccole dalla cinese, dalla colombiana. Ah, sì, Fabrizio. Sì. Allora? Fabrizio. Povero spangiurato, che vita greve, per trovare piacere deve andare dei zoccoli, che ha buttato quel veleno contro gli zingari. Ma scusami, e perciò ti merito un premio tu. E perché? Tu sei il nuovo volto, fai parlare a tutti quanti, ti merito, bravo, complimenti. Cruciani. Ma non ho capito, perché uno non può andare a zoccoli, non ho capito. Eh no, sì, può andare, indubbiamente può andare a zoccoli, è un povero spangiurato infelice, perché dopo se le prende coi zingari. Però ti volevo dire un'altra cosa, se mi fa fare un attimo una scopa. Dimmi. Per quanto riguarda Napoli, parliamo di Napoli. A Napoli devi sapere, tutti i neri, le extracomunitari, sono andati al Teatro San Carlo. Sì. A che fare? Una l'ha portato il sindaco a vedere il San Carlo, a vedere un'opera. E allora? Nessuno l'ha detto. Bello, perché di Napoli non è che parlano tutti come quello scemo che ti ha chiamato Lota. Quello è una Lota lui, chi è un povero smendurato ignorante. Comunque che buona questa canna, Cruciani, te la dedico tutta a te. Cosa dedichi? E poi ti vorrei dire un'altra cosa. Per quanto riguarda i familiari che prendono... Ma quale canna? Ma quando mai, Franco? Ma quando mai? Sì, Paolo. Io sono precursore, stati questo, Paolo è un altro nome, che se non dico queste cose a me non mi passano la linea. Fammi sentire sta canna. È una bella cima di Cosenza. Me l'hanno portato stamattina con 30 euro, Cruciane mio, per non andare... Ma fammi sentire la boccata. Aspetta un attimo, ma piccolo, la devo accendere. E accendi, amico mio, accendi sta canna. Dai, accendi. Beato lui. Accendi. Vai. Ah, mi stai regalando. Poi devo vedere una cosa. Dai, sentire, non sento niente. Fammi sentire la boccata. La tirata. Tira. Ecco che ho tirato. Ma che hai tirato? Sì, hai tirato. E come ho tirato? Vuoi che te la mando? Soffia. No, si suca, non si soffia. Sì, ma suca e soffia. Suca e soffia fuori. Poi? Oh! E aspetta un attimo, mica una sigaretta che la deve buttare. Cruciano, mi fa prendere la posta. Aspetta un attimo che te voglio vedere una cosa. A proposito dei familiari che si sono pagati, il dottore De Magistris ha lavorato 4 anni gratis per suo fratello. Comunque ritorniamo a noi, perché ti merita un premio? Perché tu fai parlare a tutti. Sì, tutti questi che siamo feriti. Certo. E certo, lo sto dicendo, tutti questi che siamo feriti mentali. Sì. Da te troviamo spazio. Tu mi piace vedere il nuovo potere. Però secondo il me... Il nuovo secondo Basaglia, me, Cruciani, certo. Sì, Basaglia certo. Un grande. No, Basaglia è stato un grande. E il nuovo Basaglia. Ma tu, per esempio, che problemi hai mentali? Beh, molti. Assai proprio, Cruciani. Fammi sentire l'odore, fammi sentire l'odore. No, mi sono messo sul balcone, Cruciani, no, sto fumando dentro. Fammi sentire l'odore. La carne dentro. Ma che roba è? Che roba è questa? Erba calabrese, indica calabrese. Erba calabrese, fermi tutti. Però, fermi tutti! Fermi tutti! Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top, siamo il top, siamo il top! Ma va suca! Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presento La Zanzara. Ancora vivo, sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo? Miserabile, pezzo di miserabile. Sono con una canna in mano, erba calabrese, produzione propria. Sì, sono asmatico e mi fa bene una pianta. Adesso che sono in albergo, bello, pulito, sistemato, sento la radio e mi faccio la canna. Erba calabrese, produzione propria. Semplicissimo. Se volete prenotarvi per un'orgia con Carmine da Roma e Cruciani, con la possibilità di prenderlo nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete prenotarvi per un'orgia con Parenzo, con la certezza che Parenzo lo prenda nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al Anal Top. Chicco, Chicco, allora, caro David, ieri sera c'è sempre qualcosa che non mi non mi torna quando sento quella voce. Ieri sera dalla vostra parte scontro tra Santanchè, Rom Vari e Rom Vari. Iniziamo, vai. Cento topi o mille topi, io tutte le volte che vengo in questa trasmissione c'è qualche rappresentante che mi convince che i rom lavorano. Se lavorano sono come tutti gli altri, si vanno a prendere una casa, se la affittano e fanno le cose come devono fare tutti. Ancora Santanchè contro la Sabaeta, la nostra amica Sabaeta. Perché non vieni a vivere solo 5 giorni a nostri problemi tu? Che io grazie a Dio non vado a rubare, lavoro, e quindi la casa me la prendo, figli, me la pago, non sono abituata a essere mantenuta, a avere ciò che i nostri terremotati non hanno, non mi fate pena, andate a lavorare, comportatevi come tutti, ci avete rotto le palle, le lo dico chiaro. Pure noi siamo degli esseri umani, io una sono persona, da quanto lei ha cominciato, io non lo so perché Rete 4, il canale 5, l'Italia 1, io non lo so perché ti stanno intervistando. Le macchinone, le roulotte a 5 stanze, non ce l'hanno gli italiani. Ai bambini. Io sono venuta, i bambini scusami. Non li mandate a scuola, li mandate in giro a rubare. Mi devi prima ascoltare, scusami. Che lei sta dicendo? Che siamo dei ladri. Quando andiamo guardi, tutti a pitare, i cittadini italiani tutti i zingari sono disponibili a pagare un affitto di 500 euro. Però con tue parole nessuno non si fida di un zingaro. Nessuno non si fida perché pensano che siamo dei ladri. E poi naturalmente Parenzo c'erano anche le voci da Rimini. Voci da Rimini contro i Rom. Sì, gente arrabbiata, immagino. Arrabbiatissimo. Sì. Senti. Io non li voglio. Se sono costretto, scappo via e andrò a abitare da un'altra parte. Tutta sta gente qui ruba solo e basta. E se vogliono la casetta col terreno, se la devono pagare di tasca propria e non con i soldi dei contribuenti riminesi. Allora, c'era anche Ma sbaglio o fanno sempre la stessa puntata praticamente? Cioè, ho come l'impressione da 6 anni a questa parte che sono qui, sì, ma è da qualche anno che monitoriamo l'ottimo dalla vostra parte, sì, che i temi siano un po' sempre gli stessi. Ho come questa impressione. Ho qui ad esempio anche sotto mano il quotidiano Libero, sì, magistralmente diretto da Vittorio Feltri. Sì, sì, sì. Lo apro la mattina, titolo: sì, ci stanno colonizzando. Cioè, che cazzo è? Italiani via, virgola, dentro i neri. Che cazzo è successo? Poi uno legge e vede che è un rapporto dell'Istat in cui si dice semplicemente che gli italiani fanno meno figli. Ci stanno colonizzando. Dai, ragazzi miei. Ma c'è anche qualcosa ragazzi su di te, miei, mi sembra, no? Sì, sì, certo, hanno... Sono affezionati a Libero, evidentemente, alle mie esternazioni televisive. Adesso recuperiamo quello che hanno messo su di me. Ma intanto, per la serie tipida Zanzara, ieri sera si è scatenato Donato da Varese. A proposito di invasione, me l'hai fatto venire in mente adesso, ragazzi. Tipida Zanzara, vai. Tipida Zanzara. Donato Varese, grande ritorno, ragazzi. Donato, ciao Donato, caro. Ciao Giuseppe, ciao. Vai, sembra lo stavo ascoltami Giuseppe. Fammi ascoltare, Davide, fammi ascoltare. Dai, Giuseppe, ascolta. Allora, io qua è inutile che ci mettiamo a parlare di tante cose che purtroppo non credo che siano importanti. A me, io ho vomitato ieri sera, ho vomitato anche stamattina, ho visto quel porco di Parenza, Parenzo lì che diceva i bambini, le noccioline, quella gente lì deve tornare nella grande Africa. Allora il partito islamico si sta organizzando in Italia per entrare in Parlamento. Questa voglia che è a fianco, bisogna fermare il partito islamico che vuole entrare in Parlamento. Voi lo sapevate questo? No, ci risultava. Io non voglio l'Africa in casa, d'accordo? Sono un fascista, sono un nazista, benissimo, io non voglio l'Africa in casa. Ecco, ma quando Parenzo dice in che... In Italia ci sono minimo 20 milioni di italiani, vogliono l'Africa in casa, non lo vogliono! In televisione, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, tutti quei figli di puttana a parlare di mondialismo, di multiculturalismo, di accoglienza, con i soldi miei! L'Italia è perduta. Prendi questo figlio di puttana. Ma chi è questo? Uccidilo. Perché ucciso. è contro gli italiani. Invece di piangere dietro una zingara, una squadrina vacca schifosa che nella vita non ha fatto altro che deturpare e rubare, no? Quella mi preoccupa almeno la prima cosa che mi viene in mente: 50.000 italiani senza residenza. Senza? 50.000 italiani. E piange, fa finta di piangere, sentono. Ma perché fa finta di piangere? Sì. Nazismo! Cruciani, ricordi sempre. Dimmi. La tua trasmissione verrà ricordata. Ecco, penso che è merito. Anche perché hai fatto parlare una persona. Beh, distrutto. Comunque voglio fondare un partito. Avrò minimo, guarda, sono scocesi. Sì. Almeno 5 milioni di italiani. Beh, adesso almeno, questo 5 no, milioni di italiani per difetto, liberare per eccesso, l'Italia da questo schifo. Ma scusa, ma perché non puoi? Ma perché non lo querela nessuno più ormai? Ma ti va il culo! Ma bandito! Scusa, non ho capito. Sei un bandito! Sei un bandito! Vai, adesso bandito! Sei un bandito, ricordati! E ringrazia i tuoi banditi che ti hanno messo lì! Ricordati! Ringrazia i tuoi banditi! Tipi da Zanzara. Il signor Donato da Varese, ragazzi. Il signor Donato da Varese. Allora, dove andiamo? Nicola dalla provincia di Chieti, vai, forza, vai. Pronto? Vai, dimmi. Buonasera. Dimmi. Ascolti, io vorrei dire semplicemente a Parenzo come si fa a difendere i Rom in un modo così forte. Sì. O deve essere di etnia Rom, e non credo che sia il suo caso. No. O è pieno di ipocrisia, o non c'è di testa. Ma perché? Non ho capito. Perché ce lui non ha mai vissuto la realtà dei Rom, purtroppo. Lui vive ai Parioli, mangia ai Parioli, ai ristoranti da 100 euro, come ha detto l'altra sera. No, io li dipende. Seguo spese, quindi dipende. E lui deve capire anche che non le osterie, è ottime osterie. Il razzismo verso queste persone qua è la realtà, è la dura e cruda realtà, deve dire a Parenzo. Non deve essere così ipocrita. Ma ipocrita su che cosa? Spiegami. È ipocrita sul difendere i zingari, perché secondo me lui dentro di sé non difende gli zingari. No. Mi spiego meglio. E chi difende? Chi difende? Non ho capito. Allora, lui difende così apertamente gli zingari, ma in cuor suo, sa che sta dicendo una cazzata. Scusa, ma che fai, lo psicologo? Non ho capito. Non che fai? Lo psicologo. E allora che cazzo ne sai? Ma no, cosa ne allora sa? Di ipocrisia, ma allora io non difendo i ladri, io sono contro, l'ho detto mille volte, le generalizzazioni. Ma mi ascolti un attimo, per cortesia, guardi, lei, lo sento dalla voce, lei non è un miserabile, lei è, potrebbe appartenere alla maggioranza silenziosa, in realtà anche lei è stato, ma sicuramente, vero, perché ma i toni vero. Moderati, civili, si capisce che vuole ragionare, si capisce io che lei, esatto, si capisce che lei è attento alla complessità dei fenomeni e non a questi giudizi tranchant, negro, banana, razzista, no, maledetto, sbiancamento, no. Anale. Lei non è di questa categoria qui di Cruciani, lei è della categoria della complessità. Ma si che capisce? Categoria della la complessità? Cosa dice la teoria della complessità? La teoria della complessità dice, ad esempio, che non è che io difendo i Rom, io sono contro le generalizzazioni, per cui non si può dire che i Rom in quanto Rom sono ladri. Allora su questo converrà anche lei, come ma ne sono sicuro, perché lei è una persona che è disposta, ma quello d'animo, pensa a che capire. Sono tutti ladri. No, vedi, bravo, è disposto no, a capire, bravo, ne abbiamo convinto un altro. No, sì, ne abbiamo convinto un altro, bravo, ma mi basta questo. Ha detto che il 99% sono questo. Ladri. Io ricordati che quando andavo alle elementari a scuola a Padova, la realtà dei Rom, nella mia cittadina, lei è disposto a capire la complessità. Non è, ha detto che il 99% sono ladri. No, quando ha detto sta roba? Adesso l'ha detta. No, ma lei ha ragione un attimo con me, non si può generalizzare così, sono delle persone, ci sono sicuramente i ladri, tanti, ok, tanti sono ladri, benissimo, ma cosa se adesso il vero grande tema, la grande sfida che abbiamo io e lei, qual anche è? I milioni di persone qual che è? Ascoltano, che sono la maggioranza, è quella di capire come integrare, cioè formare delle persone, delle figure che siano in grado di superare i campi, no? Mediatore culturale, ad esempio, ma vai a fare il che culo. Siano in Alberto grado da Foggia, fammi sentire super... Alberto da Foggia, basta con questi mediatori culturali. Giuseppe, Alberto, buonasera. Dimmi Alberto, dimmi. Buonasera, poi glielo dico io perché è incongruente pure lui. Incongruente? Allora, ti volevo dire che tempo fa al campo di zingari che c'era vicino casa, ancora a Foggia, questi zingari, a Foggia. Sì. Certo, ancora questi zingari, perché dice che li trattano bene gli zingari, allora? Le donne e i bambini. Uno zingaro ha ammazzato la figlia, l'ha arrostita e l'ha mangiata. L'ha arrostita la figlia. Ragazzi, però, dove l'ha letta questa notizia? Dalla vostra parte. L'ha mangiata e l'ha arrostita. Guardalo su Google. Aspetta, Alberto. Figlia arrostita. Figlia arrostita. Fermi là. Fermi tutti. Resta collegato, Alberto. Ciao, Ricchione. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... La Zanzara. I Rom sono una comunità che va valorizzata, anzi, più correttamente, termovalorizzata. Zingara, che cazzo vuoi? Io so che cosa fai. Stringo il portafogli, vai via, o chiamo la pulizia. Ma quanto puzzerai, tu non ti lavi mai. Zingara, ci fosse lui, vi bruciava tutti, sai. Se siete ancora qui è colpa dei buonisti, idioti che votano PD e comunisti, negri, marocchini, rumeni e musulmani, lesbiche, froci e tutti gli altri subumani. Eccoci qui, caro David, eccoci qui. Non ti piace questa canzone, eh? La trovo semplicemente agghiacciante. Ma credo che sia anche una presa per il culo. Sarà, è evidente, ma no? Mi fa... Ma è evidente, è una presa per il culo, come bello figo, dai. Decontestualizzata può eccitare gli animi di gente già... Eccitare gli animi, di gente dove siamo già pericolosa. E dove Perché siamo? Voglio dire, se il giornale per il quale anche tu credo, scrivi sì, assolutamente tal libero, sì, libero allora, bisognerebbe allora... mettere come sottotitolo libero dagli immigrati, evidentemente, perché è uno liberi sì. dagli immigrati, sì. libero dagli liberi dagli immigrati, l'unico sottotitolo che bisognerebbe allora... mettere nel giornale. Se uno appunto sta a questi titoli, italiani via, dentro i neri ci stanno colonizzando, sì, amico sì. mio, ma che cos'è, razzismo? Contribuisce, è razzismo, contribuisce questo? A creare razzismo? Una mala informazione, una mala sul informazione. Tema sì, sì. Sul tema della no, amico mio, no. Comunque, ragazzi, adesso per passare una cosa, per passare una cosa sì. un po' più leggera, ma non è affatto leggera, è ricomparso da un po' di giorni di fronte all'opinione pubblica, di fronte al vasto pubblico, sia della Zanzara che del web, il signor Valerio Vassallo. Adesso io dico, amico mio, tu sei stato sputtanato dal sottoscritto, e vabbè, questo uno dice chi se ne frega. Vassallo è il vegano che il ti vegano assalì, che è venuto qua sotto, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. che poi ha fatto una figura di merda alle Iene, successivamente è stato in galera per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Beh, che pare, però questa è una vicenda triste. Non c'entra triste. Niente, però, amico mio, io magari non so, era innamorato della fidanzata. Al massimo mi hanno stalkerizzato, al massimo, non ho stalkerizzato nessuno. Cioè lui ha stalkerizzato la fidanzata, male. So, c'è un processo in corso, è stato anche in galera, addirittura, poi è uscito, ma io non auguro alla galera a nessuno, per carità. Però fatto sta che è stato in galera un periodo per stalking nei confronti della fidanzata, c'è un procedimento in corso. Comunque questo qua è andato a rompere i coglioni a una hamburgeria, non sopporta le hamburgerie. Ora io dico, amico mio, perché devi rompere i coglioni a quelli che si campano con la carne? Ci sono tante attività economiche che iniziano, cominciano, hamburgerie, e quelli che fanno gli arrosticini in tutta Italia, gente che prova a campare come meglio può, cercando di inventarsi qualcosa. Tu che cazzo fai dalla mattina alla sera, Vassallo? Quella è gente che lavora, e siccome un'hamburgeria vicino a casa sua ha chiuso purtroppo, lui è andato là e ha goduto di fronte a questa chiusura, capito, signor Vassallo? No. Sì, guarda, senti. Ma quando senti. Chiude un esercizio commerciale senti, non c'è mai. Senti. L'hamburgeria, con l'aiuto di un rito voodoo, abbiamo mandato la sfiga, e guarda qua, dopo penso 6 mesi, 7 mesi, 8, avete chiuso, così non rompete più le palle. C'è adesso attività, ma chi cazzo se la deve comprare l'hamburgeria, l'attività fallita, con gli attivisti che martellano che non si mangia carne, che sono cadaveri, e le hamburgerie fanno sta fine. Oggi tutti gli altri subumani, eccola la mia città. E adesso sta povera famiglia come farà? Dove andranno a mangiare, poverini, come faranno? Scusa, invece di aprire l'hamburgeria, ti apri un bel universo vegano o ristoranti vegan, e farei successo. Invece in questo caso, invece di successo, se sono, hanno avuto sul cesso. Alla prossima chiusura, e go vegan. Io vi mando sempre i soliti baci, perché vi amo, siete stronzi, ma mi amo, perché se non ci fossero le merdacce che trattano male gli animali, noi non serviremo a niente. Effettivamente forse è per quello che lo faccio, perché mi pagano, perché sono famoso, perché le donne mi corrono dietro. Grazie Aguzzini, io per questi motivi passerò la mia vita a rompervi i coglioni. Ma questo qua è veramente un poveraccio, questo Vassallo. Mi pare un disturbato. Ma è veramente un poveraccio. Cioè, perché le donne mi corrono dietro. Ma questo, ma chi ti corre? Ma l'hai mai visto in faccia questo Vassallo? Sì, l'ho visto, certo. Una sorta di scheletro umano. Vabbè, quello, cioè, poveretto, ognuno è come fatto. Ma una roba incredibile, cioè, ma una roba pazzesca, poco. Dai. Noi no. Ha ragione però su una cosa, che lui vive perché c'è gente che mangia la carne, dunque ha un suo ruolo, ha un suo ruolo per quello. Anche, capito? Stasera, ad esempio, io andrò al cinema a vedere il film di Macio Capatonda, al cinema Adriano. Ottimo, andrò stasera con la mia amica Manuela Ferri. Andremo a vedere questo film. Vabbè, allora, e andremo prima a mangiare un hamburger vicino. Ecco, questo volevo dire. Eravamo con Alberto che ci raccontava questa storia, forse, assolutamente a nessuno. Questa storia totalmente inverosimile su un No, non è inverosimile. Cioè, Alberto, andare, ma che cazzo dici? Andare su Google e vedere. E che cosa devo fare su Google? Dimmi. Devi mettere lo zingaro che ha arrostito la figlia. Ma quale arrostito la figlia? È uscito sul Corriere della Sera nel 96. Oi, nel 97, credo che sia nel 1997. Sì, 1997 uno zingaro ha arrostito la figlia nel 97. Lei sa che anche qualche anno fa un signore di nome Brusca uccise nell'acido un bambino figlio di un mafioso, il signor Brusca. Il muro l'hanno fatto costruire i tuoi compari in Israele per fermare i palestinesi. Perché parli contro il muro di Trump? Ma adesso che c'entra il muro di Trump? Ma cosa c'entra il muro di Trump? Stiamo parlando dei Rom. Quello che hanno fatto i tuoi amici per non far entrare i palestinesi. Vabbè, ma Alberto, che cosa, ricordando quell'episodio, che mettiamo cosa che sia la vera... me. Quell'episodio è vero. E allora? Vabbè, mettiamo che sia vero. Allora? No, per dire come trattano i bambini e come trattano le donne. Da noi tutte le donne, tutte le bambine principalmente, si buttano nei cassonetti della spazzatura per cercare di recuperare, povera gente, quel poco che possono trovare. E allora? Quindi femmine e bambine, donne e bambine, come le maltrattano i maschi. Una volta mi pare che io gliel'ho pure detto, dice, ma perché non fai venire tuo marito? Ma tu mi vuoi far ammazzare, ha detto lei. C'è la Rom, dici la Rom. Una cosa del genere, sì, una Rom. Per te che fine devono fare i Rom? Niente, non devono fare nessuna fine, se ne devono solo andare, perché i Rom sono... Ma andare dove? Roma. Magari sono italiani. Ma come sono italiani? Tutti sono italiani, come i francesi, quelli che hanno fatto gli attentati in Francia. Quelli sono la loro cultura, non la cambieranno. No, ma sono italiani, hanno molti sono italiani. Capito, perché sono nati e stanno qua in Italia. E bisogna cacciarli via, che bisogna fare? No, niente, bisogna regolarizzare tutto, perché anche per... Guarda quello che sta succedendo. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Hai detto... Con quei poveri extracomunitari, perché questi, i campi, sono gestiti purtroppo dalla CGIL e dal Partito Comunista, che non sono esiste più il partito. Non esiste più il Partito Comunista, lei lo dovrebbe sapere. No, non è vero, è questo l'errore che tutti quanti dicono che non l'errore. Più. No, io adesso perché cambio tecnica, non li attacco più. Sono quelli non li attacco stanno... più. Boicottando Renzi in questo momento. Vabbè, questo allora, è un altro discorso. Io so sono che anche lei, se si mette con me a ragionare con calma, capisce, perché lo sento dalla voce. No, però fammi sento sentire dalla Gabriele voce della che lei di Cuneo è ben disposto a capire la complessità dei problemi. Gabriele, provincia di Cuneo, dai. Sì, Gabriele. Dai, dimmi. No, volevo solo dire una cosa su Parenzo. Sì, dimmi. Sì, eccoci qua. Se, prego. Secondo me Parenzo si intromette troppo sui discorsi degli ascoltatori. Sì, questo vuoi che ti manda a fare il culo subito? È la oppure trasmissione, no? Questo è probabile, diciamo che accada. Vabbè, allora, Gabriele? Allora, cioè, Parenzo dice troppe cavolate, secondo me. Vabbè, sì, Corrado da Teramo, andiamo a Corrado, vai. Corrado? Pronto. Forza, vai. Salve, volevo parlare di razzismo. Sì. Ovviamente dicono che noi italiani siamo razzisti, no? Se io provo a corteggiare una donna zingara o una donna musulmana, i loro pareri mi fanno il culo. Sì, no, perché non vogliono l'integrazione tra... Calmi. Cioè, il tuo metro di giudizio è il fatto che se tu corteggi... Ti è mai capitato di corteggiare una donna rom? No, perché non lo puoi fare, non te la fanno corteggiare. Sì, in che vuol dire? Vuol dire che se appena ti avvicini arrivano i fratelli, i nonni, chiunque sia, a dirti che la devi lasciare stare. Ma chi gliel'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Questa è la realtà. Allora un amico mio ha corteggiato una donna zingara, sono venuti 5-6 di loro. Un amico mio? Che hanno fatto i parenti? Sono andati sotto casa sua a dirgli che devono lasciare stare questa ragazza. Scusa, come gli è capitato di corteggiare? Non era nei campi di Roma allora, questa qua? No, non era nei campi, stava in giro. Stava in giro. A una festa. Sì. Vabbè, ciao. Praticamente frequentavo questa donna e quindi loro sono zingari. Vabbè, ciao. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. La contessa De Blanc è preoccupata per la sua sicurezza. Dice che vuole usare le armi. Io, se arriva uno, prima gli sparo in una zona e poi gli sparo in un'altra. Gli sparo nelle palle e poi nelle gambe, così almeno lo rendo eunuco e zoppo. La contessa De Blanc. Che è la signora? La contessa De Blanc. Dov'è? Senti come le otta con Cecchi Paone. Beh, quinta colonna. Mica Francia è un paese dove non succede nulla. Impariamo da quei paesi e non armiamo le contesse impazzite. Basta leggere quattro libri anziché fare la contessa, per favore. Poi racconta il primo furto che ha subito la contessa De Blanc. Io ho avuto una rapina in casa che mi hanno portato via metà dei miei gioielli, dico metà perché gli altri ormai stanno in banca, perciò non li tocco più, e hanno legato e imbavagliato la cameriera, io non c'ero, con la cosa delle rose rosse, dico ma guarda chi sarà un corteggiatore, però dico deve essere uno un po' sfigato perché non sai quelle rose del cimiteriale. A gambo corto. Con il gambo corto, io abituata a prendere la contessa a gambo corto. Hanno imbavagliato la cameriera. Vedi però Del Debbio che conosce la buona educazione, che dice non si regalano mai rose a gambo corto. Vedi, vedi, Del Debbio è bravo. Allora, abbiamo con noi una persona che mi ha dato del fomentatore di razzismo in giustamente, Italia. Giustamente, io te l'ho anche detto. Sì, l'hai detto. Che ha fatto bene. Tu assieme a tanti altri, non sei solo. Ma ognuno può pensare come vuole, per non carità. Non sei solo, perché tu non prendi le distanze con forza dalla fogna che ogni tanto emerge qua. Io ho già detto che... Ecco, quindi hai delle responsabilità, sicuro. Ma non ho alcuna responsabilità. Non solo non ho nessuna responsabilità. Perché è giusto farli parlare, ma vanno messi al muro questi dialetticamente. Cioè gli va detto che sono razzisti. Le parole vanno usate. Diana Pavlovic con noi. Buonasera. Buonasera. Ecco, come andiamo? Buonasera. Allora, sei ancora convinta che io sono un fomentatore di razzismo, Diana? Beh, c'ha ragione. Sì, certo. Ma evidente. Perché? Spiegami perché. No, io non ho capito bene perché dovrei essere un fomentatore di razzismo. Questa è la trasmissione più libera del mondo, dove non possono parlare tutti. Ma no, possono parlare tutti, razzisti, non razzisti. C'è il diritto al razzismo. Ma sei matto? Ma sì, che c'è ma il diritto. Che sei pazzo. Dai, su, in non America c'è il Ku Klux Klan. Ma in America, dai. In Italia c'è la legge Mancino. Vabbè, allora Diana, perché sarei fomentatore di razzismo? Dimmi. Intanto perché dà spazio a tutte quelle persone che fanno dichiarazioni chiaramente razziste. Qualcuno è stato anche condannato, lei è stato testimone. Sì, assolutamente. Ma che c'entra questo? Cioè... Beh, insomma, c'entra perché questo tipo di situazioni si gestisce anche dicendo le persone, dando spazio anche a qualchedun altro, insomma, in un dibattito chiaro, non così. Ma ognuno ha il proprio format, le proprie, cioè fa la sua trasmissione, cosa c'entra dando spazio a qualcun altro? Ma sì, quello che succede non è che c'è poi la quando la gente ascolta questo tipo di trasmissione, non è l'unica, voglio dire, in televisione ce ne abbiamo che peggio. Fa? Va a picchiare i Rom, che fa? No, anche sì, certo, ma va a picchiare i Rom. Ma guarda, mio marito è stato picchiato Nostra perché ha una moglie zingara che va in televisione. Ho capito, per carità, ma è una cosa da condannare. Io ho giornalmente tanti di quegli insulti e minacce, perché poi le persone ascoltano, si caricano, si sfogano, poi mandando insulti, minacce. Dunque, qualcheduno forse viene in mente anche di agire, diciamo, fisicamente. Cioè, a essere in pericolo sono, tu dici, in Italia oggi, a essere in pericolo sono più i Rom rispetto agli italiani, rispetto agli italiani sono in pericolo? Gli italiani, adesso scusami, generalizzo, ma rispetto ad altri, cioè le comunità Rom sono in pericolo? Certo che sì, allora basta guardare i fatti, negli ultimi quattro mesi sono successi tre atti di violenza. E che quali sarebbero questi gravissimi atti di violenza? Spiega. A parte quello di tuo marito, naturalmente, per carità. Quello è il primo, è successo a dicembre. Poi? È successo a novembre, a dicembre è successo a Roma in via Salone che due bambini giocavano a pallone. E a che calcio. È successo? Uno ha tirato, ha colpito una pecora di un pastore che vive lì vicino, quello è uscito fuori con la pistola, è stato in aria, li ha inseguito con un bastone e ha cavato un bambino. Ma questo qua è un pazzo, l'avrebbe fatto con chiunque, non con i Rom, non solo con i Rom, mica è un atto di razzismo nei confronti dei Rom. No, ma è pazzesco, però, non scherziamo. Ma l'avrebbe fatto con chiunque, esempio, quello è matto. Di questo io non ho visto una trasmissione televisiva di cui... No, ho capito, ma perché non è una cosa contro i Rom? Sì, non abbiamo visto i collegamenti dalla vostra parte lì. Non l'abbiamo visto. Ma allora, a parte questa trasmissione dove escono fuori delle persone che dicono... Poi c'è il caso di Folonica, quello è una violenza confronti di ma sicuro due, ma quale? Avete fatto una denuncia, avete denunciato questi due dipendenti della Lidl o no? Cioè, o tre? Ma ci Stato che sta indagando. No, ma voi come comune avete fatto le solite denunce vostre o no per nei confronti di questi qua o no? Perché di solito stiamo monitorando quello che la magistratura, che là c'è un giudice, un magistrato che deve fare vanno licenziati? Ma vanno licenziati. Perché hanno commesso, quello è evidentemente una violenza, hanno commesso una violenza durante l'orario di lavoro, cioè stavano lavorando e l'azienda deve prendere atto di questa cosa. L'azienda stessa li ha condannati, Diana, infatti, ha detto che è un comportamento che è anti... No, sono sospesi per adesso, sembra. Sì, sembra. E chissà, li hanno sospesi perché lede l'immagine due persone, rom, zingare, quello che sono, entrano dentro una zona dove non dovrebbero stare. Mettiamoci d'accordo. Allora, ma si può dire zingara? Si può dire zingara? No, non si può. Ah, non si può dire, è razzismo dire zingara. Oddio, lei lo può dire, però mi offende. Ma perché? Zingara, non è che ho detto a zingara di merda, mica dico così, dico zingara, una persona zingara, rom, zigana, come devo dire? Ma io non voglio, posso decidere come si chiama la mia etnia o lo deve decidere lei? Certo, bravo. Ma io posso decidere se chiamano una persona zingara. Ho capito, ma ti ha detto che la offendi. Allora rom, vediamo. È libero di decidere come chiamarmi, però le dico, se mi chiama zingara mi offende, se lei mi vuole offendere è libero di farlo. Ma no, non la voglio offendere, per carità, mica ti voglio offendere, diamoci del tu che tanto ci conosciamo, non è che ti devo... Cioè, il problema non è dare... Va bene, benissimo, Rom, una Rom, a parte che non te l'ho detto a te, non sto dicendo Rom alla Pavlovic, sto dicendo due Rom, due zingare, dicendo di quelle due persone, là, non di te. Comunque, due Rom, entrano dentro... Nomadi. No, non sono nomadi. Vabbè, sono due Rom entrano in un posto dove non devono entrare, due signori scherzando e ridendo le chiudono per qualche minuto, le chiudono per qualche minuto, il problema è licenziare questi due, le schernano, riprendono e mettono sul... umiliano una delle persone, ma quella non mi sembrava gira per Folloni che per Grosseto tranquilla, umiliano dai. Due donne umiliano anche qualora fossero due ladre, il ladro non... dove è scritto che deve essere umiliato? Anche qualora fossero due ladri, allora, non ho capito. Scusatemi, allora io la penso così, dopodiché poi deciderà l'azienda e il giudice deciderà. No, ma per quanto ho capito, riguarda tu la pensi così, certo. Ma posso dire cosa penso? Penso che qualsiasi lavoro, sì, anche quello dei poliziotti, anche sì, è regolamentato e deve essere in rispetto alla dignità umana. Allora, certo, se due persone fanno un reato facendo il loro lavoro, se dopodiché poi qual umiliano è sto reato, anche scusa, le... Dov'è il reato facendo il loro lavoro? Il reato lo stavano facendo quelli entrando in una zona dove non devono entrare. Che reato fanno quelli? Sequestro di persona? Quello è sequestro di persona? Non lo so, io secondo te, non è un avvocato. Secondo te? Ma secondo me è un atto di violenza nei confronti che reato? Sequestro di persona? Non lo so quale reato, io mica sono un avvocato. Tra l'altro una violenza di due uomini contro due donne, che una delle quali urla per l'hanno chiusi in un gabbiotto, e dunque per me io penso che sia un reato, lo dirà giudice. Ma ho capito, pensi che sia un reato, dunque sono accusati di sequestro. Però senz'altro è umiliazione, è una lesione alla dignità umana, devo dire, pure queste persone umani. Pure no, va bene, umani, per carità, dunque, i diritti umani violati, noi non lo vogliamo fare. Non so, chiude le gabbiotte e poi chiama la polizia, è un conto, perché per bloccarle, poi io non so cosa potevano rubare lì, perché io in video ho visto solo cartone e basta. Poi c'erano degli oggetti fallati. Infatti i carabinieri non li hanno chiamato i due dipendenti, li hanno chiamato le donne. Capisce? Cosa. Allora, se uno dice io ti becco anche a rubare, ed è legittimo. Ma stavano rubando, erano in una zona dove non dovevano stare. Cioè, erano in una zona dove non dovevano stare, per carità. Non stavano rubando, le si invita di uscire da una zona dove non dovevano stare. Vabbè, hanno giocato e scherzato un attimo, peraltro non si sa nemmeno se la cosa. Adesso hanno giocato, ma lei si deve mettere un attimo. No, ma loro difendevano per lavoro. Diciamo tutte e due. Guarda che il gioco deve essere reciproco, però. Perché se io prendo Cruciani e lo chiudo in un armadio e tu non ti diverti, non è esattamente non è un gioco, il razzismo per questo. Ma aspetta, non è un attimo, esattamente fermo lì. Un gioco, fermo lì. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso, è il top assoluto. La Zanzara. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope, no, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets, but no one. abbiamo con noi uno dei responsabili principali delle comunità rom in Italia, caro Parenzo, la signora Diana Pavlovic, che ha accusato il sottoscritto di essere praticamente un fomentatore di razzismo, però poi va in una trasmissione come ospite ogni tanto, che certo non ci va giù duro nei confronti dei rom. Qua? Come viene qui? Sì, assolutamente, si occupa però di rom quotidianamente, no, parlando... va lì a portare il suo punto di vista, a difendere posizioni. Certo, qua a parlare sì, con voi. Però stasera, allora, come considera quella trasmissione là dalla vostra parte o quinta colonna? Fomentatori di razzismo anche loro? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, glielo dice. Cioè, sono praticamente, parlando dei rom ogni giorno, collegandosi con i campi rom e parlando di reati vari, tra l'altro le segnalo che... Sì, ma basta guardare i titoli, sì. Adesso stiamo preparando... Adesso gliene faccio sentire uno, gliene faccio sentire uno ieri sera di Belpietro, non so se ieri era, dov'era ieri sera, gliene faccio sentire uno di Belpietro. Ero lì. Era lì da Belpietro? Il titolo l'ha sentito? No, adesso lo facciamo ascoltare anche agli altri, però. Magari sentiamo. Buonasera, avete visto il nostro titolo? Danno le case di Rom, ma non le danno ai terremotati, perché questo è ciò che sta accadendo. Capito? Danno le case ai Rom. Danno le case ai Rom. Io questo, per esempio, non lo dico. Danno le case ai Rom e non ai terremotati. Cioè, questo paragone. Ha ragione, lei è un po' meglio. Sì, va bene. No, vuole vabbè, dire, ma vuole, no, ma vuole non. Farvi sentire, no, farvi no, no, no, no, no. Non, questo. Non mi devi dire che sono meglio o peggio di alcuni. Cioè, però, se io sono fomentatore di razzismo, allora ogni volta che vai da Belpietro o vai da qualcun altro, dovresti dirglielo in faccia pure a loro. Ma uno deve portare. Infatti, la... infatti, però. Che state facendo? Li state accusando di razzismo? Ma faremo sicuramente delle azioni su questo ordine dei giornalisti, sicuramente. Ma poi contro chi? Se... Ma contro Belpietro. Contro Belpietro, fomentatore di razzismo. Ci manca pure questo, quello c'ha tanti casini. No, io veramente no, e basta, cioè io partecipo con le trasmissioni. Però perché... basta, non ci va più. No, no, io ci vado ogni volta che mi chiamano, infatti sto anche qua stasera, io ogni volta che mi chiamano io vado per principio perché voglio trasmettere un mio punto Vuoi di vista. Vuoi vedere fino a dove arriva... No, non è una, se non sono così masochista, no. Non so, magari c'è un po' di masochismo pure. Vuoi vedere fino a dove arriva, diciamo, la costruzione contro i Rom? No, la mia decisione, se vuole che le lo dica, è perché io penso che comunque è meglio che io possa dire qualcosa e che la comunità può esprimere una voce, che no, perché loro lo stesso farebbero una trasmissione uguale, identica, senza una voce. Quindi è meglio andarci, dunque, giusto. Io ragione. Ho fatto una scelta, anche se mi costa, onestamente. Perché? Mi costa. Perché ti costa? Cioè, c'è la bile, la bile, la rabbia che sale quando stai lì. La rabbia. Ma sì, ma poi la rabbia, ma poi quello che dopo succede, di cioè, minacce, secondo te, di cose, secondo, di, ah, di, che le di robe insulti, che arrivano. Di tutte le... No, sì, su cioè, Facebook, se chi su sono Twitter. In Italia... Ma scusa, ti sembra normale che scrivano alla Pavlovic, lei italiana, un pezzo di carta non ti fanno italiane, non ti accettiamo come italiana. Ragazzi, ancora io non so taci dice... troia, smettila di dire cazzate, stronza, sei una zingara di merda, brutta vacca. C'è gente che scrive questa roba, ovviamente guardando la trasmissione perché l'hashtag è dalla vostra parte. Ancora italiana, da hashtag dalla vostra parte, chiocciola, ma ragazzi, ma Pavlov che... Diana, non è che mi sorprendi italiana con queste cose. Come noi, faccia attenzione a quello che dice, ma che fai, ci minaccia? Cioè, questo è il livello di persone che prendono non carta e penna, ma un tasto di un computer, di un telefonino, e scrivono queste minacce. Ma ragazzi, ma questa, di che vi stupite? Non è ho una capito. Cosa ma vergogna... di cosa vi stupite? No, di cosa vi stupite? Che vanno sanzionati questi comportamenti. Cioè, io sono un po' di anni che ricevo queste cose, però io non mi abituerò mai. Onestamente, poi ma non certo. Rispondo, faccio... però su una cosa del genere. Ma in Italia sei un paese fascista, l'Italia è un paese razzista. Non si può abituare, cosa c'entra? Io ti sto dicendo, visto che ci diamo tu, che è una cosa del genere, non si può non sorprendere e non. Ma no, ma arrabbiare. Non mi sorprende, ma sì, ma rabbia di certo, cioè, denuncia, sembra, fai. Scusami, però, Cruciani, ci siamo anche conosciuti, incontrati, sì, a te sembra. Una cosa normale. Ma chi giusta, ha detto che è normale? Dopo... Chi, io non ho detto allora, che è normale, ho detto semplicemente che esiste il razzismo. Da, non, cioè non è allora una cosa. Ma dillo che quella che quella, ma certo signora, che quella... tra l'altro una donna che è una razzista, se mi scrive zingara chi? Di merda. Ah, non sì, so certo. adesso. Ma chi dillo, sono Cruciani, i razzisti? Cioè... I razzisti? Ma certo che ti dice zingara di merda è un razzista. Che vuol dire? Ma meno male, passo in avanti. Ma che passi in avanti? Ma di che mai che siete matti siete, ragazzi? No, devi dirlo, perché qui spesso se lo dici, allora. Ieri ho sentito, bene, scusami Diana, ieri ho sentito una rom in un campo dire che le donne rom sono trattate meglio di quelle italiane. Un uomo, anzi era una donna, non mi ricordo, ma è vero secondo no, te? No, quell'uomo io ho sentito che quell'uomo ha fatto una dichiarazione, un ragionamento dicendo guardate che nelle nostre comunità saremo anche pure ladri, ma nelle nostre comunità per nostra cultura non c'è violenza e dunque le donne non vengono violentate e maltrattate, non i bambini non vengono uccisi. Non è vero. Non è vero, ma non è vero. Cioè c'è meno violenza nelle, femminicidi di quanti femminicidi? Ma non lo sappiamo, magari. Ma magari no, lo si sa, guarda, è successo una volta. È stato un all'interno delle famiglie rom c'è più rispetto nei confronti delle donne? All'interno ha detto che non ci sono femminicidi all'interno delle comunità rom. No, dice che le donne sono trattate meglio. Dunque, le donne sono trattate meglio rispetto alle donne nelle famiglie, diciamo, italiane, chiamiamole così. Alcune sì, cioè scusami, però io non vedo, le donne rom e i bambini rom sono trattati meglio rispetto alle famiglie, diciamo, alle famiglie italiane. Ma dai, su, Diana, non si possono dire queste cose. I casi di pedofilia, i casi di femminicidi non ce ne sono. E allora, appunto. Invece in Italia ogni tre giorni succede un femminicidio, ok? Ma lì non c'è bisogno, sono sottomessi agli uomini le donne rom, sono totalmente delle comunità nelle quali, come si dice tra virgolette in capo, perché non ci sono capi, ma tra virgolette punti di riferimento ci sono, non sono uomini, non è vero, perché voi non ne sapete nulla di come vivono le uomini, non contano niente, solo gli stereotipi. No, non abbiamo nessuno stereotipo, non abbiamo nessuno stereotipo. Perché come fai a dirmi che le donne sono sottomesse e trattate male, non ho detto che sono trattate male, ho detto che innanzitutto le denunce non ci sono, dunque non si può sapere, cioè, ma sono situazioni, ma quali denunce? Cioè, allora, stavo parlando dei femminicidi, ok? Quando una persona viene uccisa in Italia si sa, ok? Se lo fa un rom si saprebbe immediatamente dunque non ce ne sono, mentre nella società italiana ogni tre giorni, e questo cosa vuol dire? Questo cosa vuol dire? Che sono trattate, se le donne sono trattate meglio? Io ti sto parlando dei dati, tutto lì. Dopodiché voglio dire, le violenze. Ma perché gli italiani, hanno questa sensazione che non è solo una sensazione di pericolo quando ci sono i rom? Mi spieghi un attimo una cosa? È solo una roba di razzismo? È colpa di Cruciani? È colpa di Belpietro? No, è colpa della Lega? È colpa di Salvini? Di chi è la colpa? Perché agli italiani fa paura vedere davanti la povertà, il disagio sociale. Cioè, dunque, sono razzisti gli italiani? Sono razzisti gli italiani? No, cioè, guarda, non tutti quelli a cui, molti sono razzisti, non tutti quelli a cui dà fastidio il disagio sociale e la povertà sono razzisti. Dunque, e io proprio per quelle persone forse ci vado in quelle trasmissioni e parlo anche con voi. Cioè, la colpa è degli italiani, la colpa è degli italiani che non ragionano, la colpa è degli italiani che, io, la maggior parte degli italiani non sopportano i rom, cioè non li sopportano. Io giuro, c'è il 90% delle persone. Allora, se dici non sopportano i rom, non li sopportano, hanno un senso di fastidio, di estraneità, pensano che c'è un pericolo imminente, pensano che sia qualcosa di diverso e di irrimediabilmente non è razzismo, di irrimediabilmente, come dire, incompatibile. Persona, se tu non conosci una persona non puoi avere paura di quella persona, se hai paura di lei perché appartiene a una etnia vuol dire che hai qualche pregiudizio. Ma i capi di questo razzismo, i fomentatori principali, chi sono in Italia oggi, oltre alle trasmissioni di cui hai parlato, chi sono? Salvini in primis, mi sembra, no? Beh, io penso di non dire una cosa nuova. Salvini, ho visto anche la Folonica, ma sono tanti personaggi di destra che strumentalizzano questa Santanchè, paura. Salvini, Santanchè, poi? Ma sì, cioè, non so, ce ne sono tanti. Però senza la televisione, senza quei programmi si starebbe meglio, tu dici? Io penso che l'informazione giusta e la televisione può servire se si vuole ragionare veramente su cosa possono essere soluzioni. Cioè, se chiudessero quelle trasmissioni non farebbero un soldo di danno, no, cioè, ci guadagneremmo tutti. Ma io non la tua opinione, nessuna mancanza. Non sentiremo la mancanza. Io no, tu di non certo, però voglio dire, io non voglio chiudere le trasmissioni a nessuno. L'Italia sarebbe un paese più civile, se si chiudessero quelle trasmissioni sarebbe un paese più civile. Io penso che tutti i giornalisti facessero, diciamo, avessero come obiettivo a ragionare su certi temi in modo più pacato, ecco, diciamo, e non dando spazio e parteggiando. Mi sembra che sia stata abbastanza chiara sul fatto che cioè se chiudessero quelle trasmissioni di Mediaset dove parlano, a me non mancherebbero per nulla, cioè non mancherebbero, come dire. Cioè sarebbe un mondo più civile, una società più civile, l'Italia sarebbe un posto migliore, che ne so, cioè, ma non lo so, stai cercando di mettermi in bocca delle no cose, sto cercando di farti dire le cose che pensi, punto e basta, solo ma questo. Io non ti dico, cioè per me non c'entrano le trasmissioni. Scusa, o le persone. La questione della Lidl si può avvicinare al nazismo? Al nazismo? In che senso? No, io ho fatto quella sera un ragionamento diverso. Io stavo parlando di disumanizzazione. Vabbè, cioè ma c'è una vicinanza col nazismo, con i lager, eccetera, quella gabbia ti ha dato l'impressione di un lager? Ma no, non c'entra niente, Luciani, fammi spiegare quello che intendo. No, io ho detto che questa cosa fa capire, e poi le reazioni, cioè quelle 200.000 like e quelli 30.000 commenti. Sì, io ho riso, io mi sono divertito, ho riso di fronte a quella gabbia. Vabbè, tu hai pianto, io ho riso. Fa piacere che tu riesci a divertirti. Ma è divertente, divertente. Quella zingara là, quella Roma, scusami, quella Roma in giro per Follonica e per Grosseto che ride, non è successo solamente nulla. Ride tranquillamente in giro per Follonica e per Grosseto, ride. Ma come ride? Ma cosa dici? Che ha un trauma, ha avuto un trauma? Guarda che Roma sono sopravvissuti e si sono difesi con un sorriso togliendosi di mezzo. Sai che noi non abbiamo uno Stato che ci difende, lo sai questo? E dunque stato, sopravvivenza di secoli di persecuzione è stato il sorriso. Sì, hai ragione, mi sposto e vado di là, nessun problema, va bene? Questo che volete, lo Stato Rom? Ci dovrebbe essere uno Stato Rom secondo te? No, ma che vengano tutelati i diritti delle persone. Lo Stato Rom, bellissimo, lo Stato Rom. Va bene, grazie Diana. Senti, no, Cruciani, disumanizzazione. Ma che disumanizzazione, è il primo passo, cioè il fatto verso che tu non riesci a vedere. Verso il nazismo, verso cosa? Tu se vedessi una signora aggredita che urla per strada, dici, oh mio Dio, se vedi una zingara, vedi solo una zingara, non vedi una donna. No, dipende il contesto, dai, quel contesto lì non è un contesto pericoloso, dai. Non faceva ridere quel contesto, era agghiacciante. No, ragazzi, non faceva ridere. Agghiacciante. No. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. La zanzara. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Acerta, indaga, documenta, accerta. www.acerta.it. Vi presenta Zanzara. Oh Giuseppe, oh David, chi è? Un parlaticchiore politico, ora parlate di seminchiato, la casa di Celentano, la signora, Mercù, Mercà, Mercazzo. Oh, avete a parlare di politico, PD in caduta libera, ne parlate che è in caduta libera. Renzi è morto, Consip, chi è? Consip, Parenzo, Consip, sai cos'è Consip? Se c'era ragina e su scandalo, Parenzo, ci cagavi la minchia, ci cagavi sapete dove e quanto. Ora, silence, vero pare, silenzio, non se ne parla, Consip, Tiziano Renzi, il babbo dell'amico tuo, Matteuccio, nella merdaccia. Parenzo, a parlare di cose buone, non di cose che ti commenta a te, Parenzo, Consip, parlate un po' di Consip, dai. Dai, Romeo. Romeo, ministro Lotti, ma cazzo, ma ne parlate di questa cosa o no? Oppure è un tabù. Siete miei da siete, merda concienzata, avete a parlare di cose che avevo con me nabuati, indegni di merda, bastardi maledetti massoni schifosi, massoni di merda. Ecco, non ho capito bene il passaggio sui massoni, caro questo, Davide. Questo povero svitato evidentemente non ha ascoltato le puntate nelle quali... Aspetta. Chiamalo, bravo. Pronto. Pronto. Pronto. Non rispondi. Ci siamo. Ci siamo. La conosce la famiglia di Parenzo? Ci siamo. Mamma mia. Dai, rispondi, codardo. Che cosa c'è? Ah, eccolo qua. Che cosa c'è? Hai ho finito di mangiare, mi stavo fumando la sigaretta e mi inquietate. Ma eccole qua, ecco, i 5 stelle di Olè. Personaggetto, sei un personaggetto. Io, sta cura come padre, come ti chiami? Parenzo si chiama. Pronto, pronto. Allora. Pronto, chi parla? Parenzo allora, come parla. Siamo messi con questi 5 stelle? Con Renzi, la Consip. Allora vai, comincia. Qual è il problema? Argomenta, dimmi forza. Tu, dimmi un po' tu. Ma non ho capito, perché abbiamo... Tu cosa ne pensi? Come mai non ne parlate? Ma chi te l'ha detto che non ne parliamo? Ma chi te l'ha detto? Ma ne parlate poco e niente. Io mi immagino una cosa del genere. Sì. Che sarebbe successa alla Raggi. Allora? Cosa succedeva da parte vostra? Che il pandemonio, ma non quale solo tu, ma quale pandemonio? Ma non quale solo tu, Gioia, tutti. Ma perché tutti, non sta succedendo il pandemonio, scusa? Ma che mia, sta succedendo? Mi stanno parlando dopo quanto? Dopo mesi? Ma quando non mai? Non ne hanno parlato, ora siccome a Renzi l'hanno buttato, che vogliono puntare su un altro, sì, allora ne parlano. Ma di questo si tratta, se lo vogliono levare dai coglioni. Il grande complotto. Sì, però non è sbagliata questa cosa qua. Grande complotto. Non è sbagliato. Scusa, no, però... non è sbagliato, ormai lui è bruciato. E quindi si stanno affidando a quello là, l'amico di Parenzo. Scusa, un signor... ministro, come si chiama? Ma scusami, ma non hai detto che il mio amico era Renzi prima? No, in una telefonata precedente. Tu lecchi culo a tutte bande, tranne Parenzo, che degli idioti tu come te. Tu lecchi culo a tutte bande. Tranne che degli idioti. Tranne che degli idioti come te. Tranne che agli idioti come te. Scusi, signor Cicco. Ma a me non me lo devi leccare, tu, perché non me lo faccio leccare da te. Tu non servi a nulla. Siccome ma tu, a che tu cazzo non servi? Servi a niente. Io servo niente più di te. Tu servi, sei solo, servo. Io invece servo, servi a solo a farci guadagnare servo, tanti Parenzo, soldi, perché insultandoci ci fai guadagnare molti no, soldi. No, no, no, quello è uno sbagliato, quello è perché sbagliato. Perché ci fai fare grande ascolto. Quindi grazie. Ho capito. Scusi, ho capito, signor 5 Stelle, alla fine va in povertà pure, giusto? Dunque, per signor mia, 5 Stelle, sì. Ma perché tu saremo massoni noi? Pulire le scarpe dovresti venire a pulirmi le scarpe. Ma perché saremo massoni? Scusa, spiegami sta cosa qua. Allora, voi non siete massoni, però siamo in mano a dei massoni bastardi maledetti. Ma chi sarebbero sti massoni? E voi fate il loro gioco, quindi di conseguenza se fate ma Grillo, il loro ma... gioco. Perché non ma la Raggi la è massona, la Raggi. Perché non parlate delle cose che ma stanno succedendo. Ma la Raggi succedendo, che sta succedendo? Massona. Come messa nel Pizzarotti culo con l'euro? È massone, non lo dite? Pizzarotti. Non lo ma che c'entra l'euro? Che c'entra l'euro? L'euro è tutto... La causa è l'euro, la causa di tutto è l'euro. La causa di tutto questo ma che c'entra l'euro? Ma poi il tuo amico... fanno quello che cazzo vogliono. Ma il tuo amico Grillo era prima contro l'euro, adesso non si capisce. Qual è la posizione? No, lui vuole fare il referendum. Appena si fa il referendum, poi si vede se l'Italia ci vuole rimanere nell'euro pure se ne vuole. Ma chi andare è Beppe? Beppe? Beppe? Beppe. Parenzo, tu manco hai, come si dice, l'onore Beppe, del nome Beppe. Beppe. Beppe è un numero uno. Un numero uno, Beppe, che fa i soldi con i suoi spettacoli teatrali, Beppe. Beppe Grillo, un Beppe Grillo che fa le piccioli facendo gli spettacoli con comico. Lui ha fatto un comico. Parenzo. Che succede? Non ho capito. Il PD non avrà neanche il 10%. Vi faccio un pronostico. 10%, ma quale 10%? Comunque ti abbraccio forte, sai? Poi ti ci abbraccio. Dopo l'elezione, ti abbraccio come si abbracciano i matti. Capito? Quelli che sono un po' tarati. Perché gli dai del matto? Quelli ma un po' tarati. Ti dico la verità, Parenzo. Quelli un po' spostati. Si abbracciano. Ho picchiato in destra, sei picchiato in destra, sei. Cruciani, chi do? Bone è sempre meglio di te, sempre meglio di ma vai in televisione Cruciani, sei. Guarda che vai in televisione Cruciani. Cruciani quando parla non parla sempre solo per leccare il culo ogni tanto. Tu invece lo ascolta, fai. Mai dato del massone, sì, testa esatto di cazzo, figlio di puttana, pezzo di merda. Ma perché queste cose non te l'ho dette mai, non dire minchiato ora, vire. O mi mettere cose in mucca vire. Ma scusa, quando tu te l'ho detto perché parli cose? Perché alle 8:15 di sera mangi? A Palermo mangiano tutti più tardi. Perché? Che lavoro fai? A che ora ti alzi? Ma che cazzo te ne fotte? Ma che lavoro fai? Tu che lavoro fai? Come mi chiama e non lo devi sapere. Ma che lavoro fai? Lo spacciatore? Che fai? Però in realtà, caro Parenzo, ci avviciniamo a... Napoli-Real Madrid e abbiamo scoperto che mi vogliono bene a Napoli, mi vogliono molto non bene credo a Napoli. Questo. Sì, sì, sì, mi vogliono molto bene a Napoli. Abbiamo provato a fare una piccola indagine. Cosa ne pensano del sottoscritto i Napoli Club? I Napoli Club. Sentiamo. Pronto? Buonasera, Napoli Club? Sì. Lei ha visto cosa scrive di noi cruciani sul Libero? Ce lo possiamo dire tra di noi, ma non possiamo scrivere che un figlio di Namignotto, o stronzo, se no ci prendiamo una querela. Bisogna quantomeno rispondere a tono alle provocazioni che fa. Pronto? Io mi chiamo Ruggero, sono un tifoso del Napoli. Lei ha visto cosa scrive di noi cruciani sul Libero? Ah, Cruciano. Cruciani? Ah, Cruciani. Ma sì. Lei sa che... Allora mo lo vediamo su... Sul Libero, ma lei sa chi è Cruciani? È il giornalista là. È uno stronzo, così questo lo sa. Ecco, e ha scritto il vittimismo di chi non sa perdere. Ha rotto i palloni, cioè noi sì. Abbiamo rotto i palloni, capisce? Ho capito. Chi ci ha rottissi i coglioni, noi palloni. Noi ci ha rotti i palloni, noi ci ha rotti i coglioni. Cruciani. Cruciani lo conosciamo, non è che è la prima volta che attacca Napoli. Non si deve permettere. Cruciani lo conosciamo, è uno che non perde occasione quando c'è qualcosa contro Napoli da dire qualcosa. Cruciani lo sappiamo com'è fatto. E vabbè, solo che noi non dovremmo dargli tanta pubblicità, anche perché lui, insieme al Libero, fanno una crociata, diciamo approfittando anche di queste cose che Napoli offre, tra virgolette, contro il PD. Ma questa è una schifezza. Certo, ma lì, ma se ci fai caso, sotto c'è, chiama in causa anche la Sicilia. Per cui. Ma allora è razzista. È un razzista, certo che è un razzista. Sì. I cruciani non ne possiamo più. No, è giusto, ma quello è uno stupido, quindi. Non so se voi avete visto cosa ha scritto di noi Cruciani sul Libero. Cruciani non è nuovo a queste cose qua, insomma, già alla Zanzara, insomma. Forza Napoli! Sempre. Allora, caro David, ripeto, grande scandalo per le parole di Sgarbi ieri sul vitalizio. Il vitalizio di Sgarbi, prendo 9.000 euro. Sai che c'è di nuovo questa cosa che è stata innescata dai grillini? Sì, di abolire perché... Di abolire i vitalizi, eccetera. I vitalizi eccetera. Già non esistono più in quanto vitalizi. Ma no, non è vero che non esistono più, non è vero. Esiste un'altra cosa che è una pensione diversa... Sbagliato, sbagliatissimo, cancellare tutto, sicuramente, cancellare tutto. Ma ce lo devono prendere la pensione neanche? Eh? No, nulla. Ma nulla. Questo se, mi sembra una follia. Se tu perché vai se uno in Parlamento per 15... non prendi nessun vitalizio, nessuna pensione. È per un lavoro comunato. Fai una cosa privata. Deve essere fai i tuoi soldi, li metti parte del tuo stipendio, li metti in una cosa privata. Se come vuoi, faccio io non ad esempio c'è faccio la pensione esatto, privata ovviamente, bravo, non fai nessun vitalizio, non me ne frega niente, non è un obbligo fare il parlamentare. Comunque Sgarbi, che prende con la legge passata 9.000 euro, è stato anche fortunato perché, come sai, ha una condanna inferiore ai 2 anni e dunque l'ha scampata da questo punto di vista, sotto i 2 anni, e dunque non deve restituire il vitalizio per la legge approvata. Dice che lui se li merita tutti questi soldi. I grillini devono andare a fare in culo, dice, devono lavorare gratis perché loro hanno reddito zero e grazie ai voti di Grillo sono riusciti a guadagnare quello che prima non guadagnavano. Poi i vitalizi che ormai sono diventati, lo diceva, vabbè, tu prendi 9.000, non è che prendi poco. Sono ben felice, me li merito anche. Ma i miei figli sono felice che vada lì. Allora, dove andiamo? Mario da Roma, vai Mario. Oh, sì, dimmi, sentite? Mario, dimmi. Sì, con chi stai là? Con la tua fidanzata? Sento una voce da donna. Sì. Chi c'è? Tua fidanzata o altro? Moglie, fidanzata? No, fidanzata. E allora, perché anziché ascoltare la radio non la abbraccia e non la accarezza con tenerezza anziché stare al telefono? Fino a 30 secondi fa la stavo accarezzando. Cioè, stavate scopando fino a mezz'ora fa? Ma diciamo che ci piace toccarci e farci le coccoline mentre ascoltiamo la zanzara. Ma perché ce lo deve dire? Ottimo, ma perché ce lo deve dire alla radio? Molta gente mi chiama, tenete questa intimità per voi. Molta gente mi chiama e mi dice che durante la zanzara non proprio, diciamo, la trombata, ma il petting, anche piuttosto, come dire, anche piuttosto. Mamma mia, ragazzi, ma mettete della musica, diciamo, mettete Bach, mettete musica classica. Tu dove la tocchi, scusa? Vabbè, ma io la, guarda, io le tocco dappertutto, mi piace stuzzicarle i capezzoli, le tette. Vabbè, tette, scusi, tette. Però sono le 20:29 è la radio della Confindustria. Io per niente io cerco di rilassarmi, ascolto la radio, ascolto la Zanzara, e tra le 19 e le 20:45 20:50 la comincio a stuzzicare, le tocco le tette. Sarà contenta la sua fidanzata, cioè, che lei dice queste cose davanti a 2 milioni di spettatori, di ascoltatori. Sono libero e tranquillo di poter concludere. Di poter concludere, ecco, me la passi un attimo la tua fidanzata, un secondino, giusto? È timida, non vuole parlare. È timida, ma lei pure tocca mentre tu tocchi? Tocco e ritocco, anche tu. Cioè, vi toccate durante la Zanzara. Questo è dotato di buona fantasia. Cioè, ma la voce di Parenzo e la voce di Cruciani, chi è che, cos'è che ti fa... C'è un sottofondo, oppure c'è qualcosa che in particolare provoca l'eccitazione? È proprio un incrociarsi tra te e David. Beh, certo, certe volte David me lo fa un po' ammosciare. Anche la Paolo dice, magari anche la signora Rom te l'ha fatto un po' ammosciare. La signora Rom, no, lei, devo dirti la verità, me lo fa un po' attizzare. Beh, sì, ma è un branco di maiali sta gente qui, però si può dire a questo punto neanche tutti, questo. Dopo torniamo a casa di Mario. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al casello di Genova. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Ma diciamo che ci piace toccarci e farci le coccoline mentre ascoltiamo la Zanzara. Ma io la, guarda, io le tocco dappertutto, mi piace stuzzicarle i capezzoli, le tette. Caro Parenzo, tutto viene disvelato in questo luogo, in questa trasmissione, sì, tutto viene, carità, fuori, io... anche i particolari più intimi. Fattene una ragione, ma già te la sei fatta la ragione. Sì, beh, già hai catalogato dentro la tua testa, hai elaborato molto bene questa cosa, questo semilutto lo hai già elaborato e lo hai trasformato in grande forza. Ma sai, amico mio, mi stupisce sempre l'umanità quando una coppia di giovani ragazzi come questi qui, o non più giovani, non ne ho idea di quanti anni abbiano, si confessano davanti a 2 milioni di persone, rivelando loro particolari, bene, che appartengono, Mario, all'intimità. Fa bene, perché dice che questa trasmissione lo esalta, lo fa stare bene. Ma io non dico che uno non debba fare morbido, che profuma probabilmente di pesco, no, ma io penso o forse puzza magari della sua fidanzata. Io penso che il sesso sia una cosa, esempio, intima, non una cosa collettiva. Sì, però io non vorrei citare famose trasmissioni del passato che non esistono più negli Stati Uniti, dove le parti private, le parti intime vengono disvelate, vengono rivelate in tutta la loro, come dire, veridicità, in tutta la loro forza, in tutto il loro pulsare, direi. Ecco, cosa pulsa da quelle parti, Mario? Cosa pulsa da quelle parti? Meglio, Mario, non farselo dire. Guarda, ci sono tante. Aspetta, che non sento, non più, si sente, amico, non pulsa qui niente, non pulsa a cazzo qua, non pulsa. Il telefono non pulsa sicuramente, Mario. Mario. Vai a fare il culo. Provo sul più bello, Mario. A richiamate Mario. Intanto, ragazzi, il neo presidente del Palermo rapito dalle Iene durante la notte. Cioè, tu adesso, Parenzo, io per carità, cioè, l'ho anche scritto, l'abito non fa il monaco, non ci dobbiamo, come dire, no, non ci dobbiamo fermare alle questioni estetiche. Uno può essere anche tutto tatuato e in realtà essere una persona straordinaria, cioè, per carità, ma sicuramente è così. Però, amico mio, neo presidente del Palermo, la notte si fa prendere dalle Iene in albergo e si fa tatuare il simbolo del Palermo sul petto. Vabbè, questo però non ci vedo nulla di male. Amico mio, dai. Si sono presentati in camera mia alle 2 del mattino e mi hanno intervistato in pigiama sul letto. E poi mi hanno detto: vuoi dimostrare la tua passione per il Palermo? Allora guarda, c'è un tatuatore palermitano chiuso dentro una stanza dell'albergo che è pronto a tatuarti se sei pronto. E ovviamente mi sono tatuato. Allora, caro Parenzo, stamattina sul prestigioso quotidiano Libero ho rivelato che il signor Baccaglini, Paul Baccaglini, Paul Baccaglini ha un tatuaggio sul pisello. Un dettaglio non da poco, questo. Un dettaglio importantissimo. No, no, cioè, questo certo siamo fa anche molto da, male. Credo. Siamo passati da Zamparini al presidente col pisello pittato. Col pisello pittato, capito? Dipinto, bellissimo. Ma sai che male che fa farlo? Mamma mia. Mario da Roma. Sì, sono allora qui. Mario, dimmi. Allora, niente, ti stavo dicendo, ci piace fare le coccoline, però la mia ragazza ora ha messo da parte la timidezza, voleva dire una cosa a parenti, se me lo permetti. Sì, vai, eccoci vai, qua, vai, pronti, vai. Sentiamo. Vieni. Prego, cara signora. Ecco, te la passo. Sì, grazie, la cara signora. Nel frattempo signora. Che ti ha fatto un qualcosa, no? Mamma. No, cara... no, non abbiamo fatto niente. Volevo rispondere a David. Che sì, cara signora, prego. Buttata un po' sul... Perché, cara signora, come ti chiami tu, innanzitutto? Io sono Marta, piacere. Marta. Cara Marta, che bella eccoci, voce che hai. Eccoci qua, Marta. Tu sei romana, mentre Mario mi sembra un po' del sud, o no? O sì, calabrese. Vedi, vabbè. Calabrese. D'accordo, benissimo. Che voleva dire, è cara Marta? È una disgrazia, ogni tanto capitano pure queste cose. Nella vita. Infatti, li prendiamo tutti noi. Che vuoi fare? Sì. Mi dica, cara Marta, prego signora, mi dica. Io volevo dire a David che l'ha buttata un po' così sul becero, sul fisico, che in realtà non l'abbiamo presa come solo una cosa fisica, noi la zanzara, una stimolazione fisica, ma proprio un elemento di unione della coppia, in quanto quando io e Mario, insomma, abbiamo iniziato a uscire insieme, sì. E il fatto che io ascoltassi la zanzara, certo, è stato per lui un elemento decisivo per far sì che lui si innamorasse di ma me. Ma pensa a te. Ma ci sono delle storie fantastiche, caro David. Ma perché devi essere quasi sempre mi così? No, no, no, questo sempre quasi così mi negativo. No, per carità, anzi, ci sono persone che ad esempio si incontrano a Palazzo Te davanti gli affreschi, l'affresco dell'amore degli dei di Giulio Romano. Ci sono persone che ad esempio si incontrano davanti a un quadro di Van Gogh, persone che si incontrano al Louvre, persone che si innamorano davanti a una mostra. In un, e invece un concerto. Questi qua si sono benissimo e ci sono persone a Madonna dei Monti, ottimo, a Roma, ottimo, mentre bevevamo una birretta, quando lui già era abbastanza convinto dal mio vestitino corto color verde acqua, ma quando io ho detto sono un'ascoltatrice accanita della zanzara, per lui è stato come aver trovato un colpo la di fulmine, capito? Bellissimo, capito. Molto bello. Ma ogni tanto, avete, come dire, trombato, scusa se uso questa cosa, anche con la zanzara in sottofondo, solamente cose no, diciamo... per noi quella è proprio una cosa, cioè quasi quotidiana. Quasi quotidiana, ma scusa, ma... Sì, infatti vi avevamo mandato anche un messaggio WhatsApp quando qualche mese fa ci eravamo praticamente lasciati, ma io stavo andando via di casa, e invece il giorno dopo abbiamo fatto pace facendo l'amore sotto la zanzara, e quindi vi avevamo mandato il WhatsApp che eravate stati per l'ennesima volta, capito, insomma, cose... il collante della nostra storia. Tu capisci che bene, io sono anche... Bene. Devi essere commosso per questa cosa qua. Adesso commosso. Devi essere commosso dal mi fatto che questi due ragazzi... perché mio figlio ha buttato il ciuccio qualche giorno fa. Vabbè, se mi permetti, per questo no, mi commuovo. No. Io devo dire mi no. commuovo no. quando il mio figlio, quello piccolo, sta gattonando in modo straordinario e tra poco camminerà. Ma commuoviti per questo, perché questi due, Mario e Marta, lui dalla Calabria, vabbè, succede anche questo nella vita, per carità. Vabbè, questo che dalla Calabria e Marta, romana d'accento che si sente romano, sono uniti dalla zanzara. Sono uniti dalla zanzara. E trombano anche, per carità, con la zanzara in sottofondo. Ogni tanto fanno delle cose. Spesso. Scusami, per carità, e scusi, poi signora. Fanno anche del petting, come dire, bene. Anche spinto. Per esempio, tu sesso orale lo farai col tuo ragazzo, immagino, no? Sì, per forza, naturalmente. Bene, molto bene. Ma capito, dopo quanto tempo avete la stessa frequenza? Da quanto tempo state insieme, scusami? Un anno e 7 mesi. Ma la frequenza sessuale è sempre la stessa? È cambiata oppure no? Oppure un po' diminuita? No, con Mario è impossibile diminuire. Impossibile. Tu vorresti, Mario, tu vorresti Mario. Tu... Dopo un po', insomma, non ne puoi più, è un martello. Ho pure il tapirulan in camera e spesso e volentieri non riesco a fare il tapirulan perché tra il lavoro... Ma che le cazzo cose è? Ma un martello pneumatico sto Mario. È calabrese, perché è calabrese. Perché vuol dire calabrese? Vabbè. Ciao Marta. Che bella voce che hai, ciao Marta. Ciao. Arrivederci signora, grazie molto. Ragazzi, abbiamo con noi un signore che fa il tatuatore, un signore che si chiama Gabriele Donnini, che ci può rivelare cosa succede quando si tatua un pisello, quando si tatua un pene. Ah, però un tema importante, un tema fondamentale, perché sì, il neo presidente del Palermo, sì, perché non ho trovato effettivamente approfondimenti sul Sole 24 Ore questa settimana, no, no, su questo, no, no, non ho trovato interviste, Gabriele, a esperti. Eccoci, pronto, buongiorno, come stai? Buonasera. Come stai, Gabriele? Bene, tutto bene? Non c'è male, sì, bene, non c'è male. Allora, caro Gabriele, tu fai i tatuaggi, credo che tu sia anche il tatuatore del signor D'Agostino, se non sbaglio. Sì. Beh, per cui, insomma, grande impegno. Una garanzia, no? Una garanzia. Grande impegno, grande impegno, perché hai il corpo interamente ricoperto da tatuaggi. Praticamente sì. Praticamente sì. Ma ha qualcosa ancora di libero il signor D'Agostino oppure no? Cioè, sì, secondo... sì, sì, sì. Per esempio, il pisello sicuramente non ce l'ha tatuato. Il pisello sicuramente non è tatuato, sicuramente non da me. Ecco, ma hai sbagliato? No, diciamo che non ce l'ha tatuato. Ma tu, quando hai tatuato D'Agostino, qualche volta hai sbagliato e quella ha fatto: oh, ma che cazzo mai fatto? Ma che sei matta, pezzo di merda. Cioè, ha reagito, hai fatto qualche errore con lui o no? No, mai. Hai sempre eseguito in maniera fedele quello che lui diceva. Più o meno sì, più o meno sì. Ci ho messo anche del mio, però insomma, più o meno sì. Ecco, raccontami un po' questa cosa del pisello, perché abbiamo scoperto che il presidente del Palermo. Ma si può fare davvero? Cioè, fare sicuro. Ma certo, ma che si può quanto fare. Quanto male fa? Ma quanto male fa? Quanti piselli hai fatto, innanzitutto, Gabriele? Allora, io così, in 30 anni quasi di carriera, diciamo così, ne ho fatti solamente due. Due? Solamente due? Ma è una rarità secondo te oppure sei proprio non direi... vengono da te a farsi pisello? No, secondo me è una rarità. È una rarità. Dunque è giustificata questa cosa che tu solamente hai fatto solamente due persone? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Per due motivi. Uno, perché sul pisello, chiamiamolo così, non è che si possono fare grandi opere d'arte. E due, perché fa male serio. Cioè fa male veramente a farsi un tatuaggio sul pisello? Sì. Cioè, male proprio che devi stare, che ne so, devi stare lì con i denti. Sì, sì, fa male. Poi cioè, te devi fare l'anestesia quasi. Anche su questo, no? C'è chi dice che bisogna farlo in posizione eretta, c'è invece chi dice che bisogna farlo in posizione, diciamo, di moscio. Riposo. Beh, questo è interessante, no? Allora, noi siamo partiti dal fatto che il presidente del Premio, il signor Baccaglini, ha tatuato sul suo pisello Louis Vuitton. Adesso io, veramente, sembra incredibile, perché poi uno si fa tatuare il pisello, d'accordo, già siamo, secondo me, alla follia. Beh, uno si fa tatuare il pisello, adesso lo posso dire io che siamo alla follia, io sono un grande amante della libertà, però il tatuaggio sul pisello non ci arrivo, amico mio. Non ce la faccio. Uno è libero di tatuare. Sì, vabbè, Gabriele, sì, per carità, però, per carità, però sì, pure io tu. Io anche trovo che sia un po' un'estremizzazione. Ecco, tu sei uno tatuato, Gabriele? Sì, beh, certo, sì. Cioè, sei uno tatuato e al pisello non ci arrivi. No. Amico mio, dai, ma il dolore, ma ragazzi, ma adesso, ma ecco, di là, ma ci si tatua anche estetica. Sul glande, secondo te? Anche sul glande? Sì, è sconsigliato farlo per le terminazioni nervose che ci sono, però si può tatuare anche. Cioè, conosci qualcuno che si è fatto il glande? Io ne ho conosciuto solamente uno che si era tatuato sul glande una mosca. Una mosca? Una mosca. Mi piacerebbe conoscere sto genio. Comunque. Una mosca sul glande, amico è un mio. Un tipico tatuaggio, diciamo, da... Colorata pure? Ma colorata? No, no, no, era proprio una macchia nera ormai, era diventata, capito? Mamma mia. E invece quelli che hai fatto... Che sta a significare là? La poca attività sessuale che uno ha durante un periodo di detenzione. Ah, per cui era un ex carcerato, un carcerato. Sì, esatto. Ma tu sei stato pure in galera, se non mi sbaglio. Vabbè, quella è un'altra storia, dai. È un'altra storia. Sì, noi, se non sono stati almeno una volta in galera, non ce li vogliamo quindi nemmeno. Quindi avrai imparato a tatuare in galera, probabilmente. No, no, grazie a Dio no. Senti, Gabriele, ma spiegami una cosa. Ma tu che cosa hai tatuato sul pisello? Ho tatuato due scritte. Due scritte, cioè alle persone a cui hai... No, non il tuo pisello, alle persone a cui hai fatto il tatuaggio. E che c'era scritto? Uno gli ho tatuato Enjoy e all'altro una cosa un pochino più forte, Succhiami. Beh, amico mio. Questo anche, come dire, una spiegazione, lei dice, certo, no? Voglio dire, è un pisello parlante, no? Scusa, spiegami una cosa, ma questo Succhiami dove era scritto? Cioè, sull'asta. Ah, sull'asta, naturalmente, ma in che vabbè, ma perché è visibile comunque, sempre o no? Dalla parte laterale, superiore, oppure... Sul lato, questo. Era. Sul lato, ho capito. Parenzo, potresti farlo anche tu, sarebbe stupendo. Guarda, io no, per paura, figurati là, ma per paura non mi sono fatto neanche il tatuaggio su altre parti del corpo, diciamo così, meno sensibili, proprio paura per paura. Di... Paura del dolore? No, per il dolore, di stancarmi. Cioè, la cosa che mi dà più... No, anche io... È la paura che magari... Se se uno ha queste paure è meglio non esatto, cioè, ma non mi magari potrebbe piacermi per qualche giorno. No, assolutamente non è necessario. Allora, mi sarei tatuato tipo le iniziali dei miei vabbè, figli, dai, no? Però voglio dire, non lo faccio perché magari dopo un po' mi stufo e quindi dico, ma cavolo, mi sono fatto sto sfregio sul corpo. Vabbè, Gabriele, quindi... comunque, no, due soli piselli in tutta la tua carriera trentennale. Sì, sì. Due soli piselli, uno c'è scritto Enjoy, l'altro su. Aspetta un secondo, che sono al telefono con Roberto Napoletano che sta facendo il titolo per Domani del Sole. Sì, sì. Esattamente, direttore, sì. Sentito bene sulla tua sì. radio. Sì, fate parlano presto, fate del presto. Tatuaggio sul pene, esatto. Hai sentito bene, direttore, esatto. Sì, sì, ma è proprio così, l'hanno appena detto. Stai parlando dove? Tatuaggio. Tatuaggio dove? Dico, direttore, sul Roberto, scusi, sul direttore, pene. Direttore, stiamo parlando... Stiamo facendo il titolo, direttore, giornata domani alla borsa, come Aro, borsa di Tokyo, borsa di New York, fate presto a chiudere. Gabriele, allora enjoy e succhiami, vabbè, enjoy e succhiami. Va bene. Fondamentale. E sull'ano pure si possono anche. Fare? No, natiche tante, ma ano no. Ah, pure le natiche, beh sì, natiche. Natiche. Tatuaggio giapponese. Sì, quello è normale, diciamo. Ma è vero che tu fai anche dei tatuaggi nell'orbita dell'occhio? No. Oh mamma. No, è un altro quello. No, no, no. Il tatuaggio più strano che hai fatto... È un'altra di quelle estremizzazioni che per me non ha nulla a che vedere con il tatuaggio. Ciao Gabriele, ciao ragazzi, buonasera. Giannetto, provincia di Modena, per concludere, vai Giannetto, dritto. Volevo raccontarti un episodio che è successo a me nel 2012, parlando degli zingari. Sì. Ho subito un furto, sì. Nel quale il ladro zingaro si è fatto male, sì, allora? Si è lasciato le tracce di sangue. Ah. Noi abbiamo preso su il carabiniere. Quanto ha rubato? Ha rubato 3 pagine di roba. No, ma quanto? Quanti soldi? Quanti soldi ha rubato? No, soldi neanche uno. Ha rubato solo roba affettiva dei miei genitori, dei genitori di mia moglie, roba mia. Condannato? Adesso vi spiego. Troppo tardi, ci sentiamo domani. Un abbraccio, ciao. Grazie Roberto D'Agostino. No, grazie a cazzo. È stato chiarissimo. Grazie a cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un po' di tempo fa non lo volevi prendere nel culo. Radio 24. Libera la voglia di fare. Chicco!